Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati. A Salva Danaio, la crisi economica sta influenzando il mondo dei consumi. Sembra un'affermazione abbastanza retorica e scontata in questo momento. È scontato che effettivamente qualche cambiamento nelle nostre abitudini di spesa lo stiamo avendo. A giudicare dalle statistiche, il calo dei consumi e delle vendite al dettaglio comincia a consolidarsi da qualche mese a questa parte. Le statistiche di Confcommercio, dell'Istat lo dimostrano ogni mese, ma a parte i valori in termini assoluti, quello che vogliamo esplorare oggi è il cambiamento all'approccio verso il consumo, perché la sensazione è che dalla crisi possa maturare anche qualcosa di buono e qualcosa di interessante. I consumatori sono diventati attentissimi ad approfittare di sconti e promozioni, ma non amano certo trascurare la qualità dei prodotti, e comunque non è detto che siano disposti sempre a rinunciare al buon prodotto pur di risparmiare. E forse non è un caso che proprio dalla crisi si sia intensificata l'abitudine di acquistare prodotti direttamente dal produttore, molto più del solito. In queste ultime settimane abbiamo sentito parlare di farmer market, di mercati del contadino, di latte alla spina, dei mercatini dei produttori. Insomma, è sempre più diffusa la vendita diretta, insieme a tutte quelle iniziative che privilegiano il ritorno al territorio, ai prodotti stagionali, al biologico e soprattutto all'incontro fra produttore e consumatore. Allora, voi come vi state comportando? Vi interessa questo mondo? Avete cominciato anche in virtù della crisi, ma non solo di questo, ad esplorarlo? Raccontatecelo questa mattina a Salva Danaio all'800 24 00 24. Noi molto volentieri metteremo a confronto le vostre esperienze con chi le coordina dall'alto. Intanto Rolando Manfredini, responsabile qualità Coldiretti, che ci illustrerà le esperienze che si sono intensificate, come dicevamo prima, dei farmer market, dei mercati del contadino, cosa si trova e soprattutto a che costi. Dottor Manfredini, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Buongiorno a Giancarlo Marini del Gasdotto di Milano, gruppo di acquisto solidale, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. E ringrazio di essere con noi anche Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, che ha avuto una mattinata piuttosto complicata ma è riuscito lo stesso a darci la sua disponibilità per Salva Danaio. Ci racconterà invece dell'esperienza di SMS Consumatori, attivata dal Ministero per le Politiche Agricole con il supporto delle associazioni dei consumatori, molto attivo per monitorare proprio i prezzi, soprattutto dell'ortofrutta, che erano volati alle stelle qualche tempo fa, adesso un pochino si sono ridimensionati, ma è sempre meglio non abbassare mai la guardia. Trefiletti, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Grazie ancora. Allora, il numero verde ve l'ho ricordato, vi ricordo anche che ci potete scrivere alle 349-238-6666 i vostri messaggi sul tema di questa mattina, se vi appassiona o se vi è cominciato ad appassionare di recente. La borsa oggi finalmente vive una giornata di tregua dopo i continui ribassi che sono stati registrati nelle ultime sedute. Per la verità sono scene che vediamo ormai da 2 anni a questa parte, sicuramente da 1 anno e mezzo, e soprattutto abbiamo notato come nelle ultime settimane Milano abbia intensificato notevolmente e anzi amplificato le perdite rispetto al resto d'Europa. Oggi invece, per fortuna, amplifica i guadagni. L'S&P MIB a Milano recupera il 2,54%, mentre Parigi sale dell'1,21%, Francoforte dell'1,83%, Londra dell'1,12%. Oggi abbiamo un generale recupero dei titoli del settore bancario ed assicurativo. Infatti a Milano sono proprio Unicredit e Intesa San Paolo a tirare la volata alla borsa. Unicredit più 8,45, il titolo sta tentando disperatamente di andare a recuperare gli 80 centesimi. Intesa più 7,36 ad 1,50 euro. Fiat recupera 4 euro e guadagna 7 punti. Luxottica più 6, Alleanza più 4, STM più 3,84, Monte dei Paschi più 3,10, Ubibanca più 2,93, Eni ed Enel sono in rialzo di 2 punti abbondanti. Chi invece non vede nessuna frenata alle sue vendite, Seat Pagine Gialle, che anche stamattina sta cedendo il 4,60%. Oggi è una giornata difficile anche per Mediolanum, meno 3,27%, che va in controtendenza rispetto al settore bancario. Fastweb meno 2,89%, Finmeccanica meno 2,54%. Lo dicevamo anche nel giornale radio, stop alle contrattazioni oggi per il Banco Popolare, perché il gruppo ha fatto sapere, ha formalizzato questa mattina la richiesta al Ministero dell'Economia, alla Banca d'Italia, di emettere i Tremonti Bond per ricapitalizzarsi, ma soprattutto sta riorganizzando organizzando la ristrutturazione della controllata Banca Italease, anche questa sospesa dalle contrattazioni, e quindi vedremo in giornata su questo versante che notizie arriveranno. Direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina: come si stanno modificando le nostre abitudini di spesa alla luce anche della crisi. Gli italiani stanno riscoprendo le vendite dirette al produttore, i mercatini rionali, i mercati agricoli, i mercati dei produttori, insomma sentiamo che cosa sta cambiando. La crisi dei consumi è stata confermata dai primi dati del 2009. A gennaio Confcommercio ha registrato un crollo del 4,6% nelle quantità consumate rispetto allo stesso mese del 2008 e in particolare le spese alimentari hanno subito un calo dell'1,4%. Ma un processo ben più importante sta investendo il mondo dei consumi. Sta infatti prendendo piede una cultura nuova nell'approccio all'acquisto, soprattutto alimentare. I consumatori sono sempre più attenti alla qualità dei cibi che mangiano, alla loro provenienza e al contatto diretto col produttore. Si assiste ad un ritorno al territorio, ai prodotti stagionali, al biologico. Così, dai farmer market ai gruppi d'acquisto solidale, si moltiplicano le iniziative su tutto il territorio nazionale. In particolare è sempre più diffusa la vendita diretta, che accorciando la filiera produce un doppio vantaggio, per i produttori da una parte e per i consumatori dall'altra. La stessa cassetta di frutta o verdura, senza i costi della distribuzione, può essere venduta a prezzi competitivi e in alcuni casi perfino più economici. Ma in tempi di contraffazione alimentare, di contaminazione dei terreni agricoli e di sfiducia verso processi produttivi sempre meno trasparenti, i consumatori vogliono soprattutto potersi fidare di ciò che mangiano. Si sta sviluppando quindi una filosofia di acquisto orientata al consumo critico, con un occhio al portafoglio ma anche all'ambiente. Sulla strada di una maggiore consapevolezza dei consumatori si sta muovendo anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che in collaborazione con Federconsumatori, ADOC, ADUSBEF e Codacons ha lanciato il progetto SMS Consumatori, un servizio gratuito che permette di conoscere in tempo reale i prezzi medi dei principali prodotti ortofrutticoli e segnalare eventuali anomalie. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Il messaggio che inaugura quelli che arriveranno probabilmente in giornata è il seguente di un ascoltatore che non si firma: mi interessa molto il bio ma costa troppo, e quindi anche questo insomma è un terreno che ci piacerebbe esplorare, visto che noi stamattina volevamo parlare delle nuove abitudini delle famiglie italiane che cercano di risparmiare mantenendo un occhio attento alla qualità del prodotto che si acquista, soprattutto se ci riferiamo all'ortofrutta. Beh, se l'approccio che gli ascoltatori hanno è questo, la preoccupazione che hanno è questa, cercheremo di capire se hanno ragione o meno dei loro dubbi. Io comincerei con Rolando Manfredini, responsabile qualità della Coldiretti, e come vi dicevo abbiamo chiamato Coldiretti perché questa grande associazione di rappresentanza del mondo degli agricoltori ha attivato una iniziativa che si chiama Campagna Amica, e quindi come dire, la realtà dei farmer market. Dottor Manfredini, che già si conosceva con anche, come dire, lo stimolo della crisi, si è cercato in qualche maniera di farla conoscere ancora di più tra i consumatori italiani. Diciamo, certo, farla conoscere di più ovviamente attraverso questo sistema e attraverso la nostra fondazione che è Campagna Amica, ma soprattutto cercando di moltiplicare quelli che sono appunto il numero dei mercati di vendita diretta e quindi arrivare poi a un consistente numero di mercati per soddisfare anche le esigenze di ricerca che il consumatore ovviamente ha manifestato. Noi in grosso modo siamo partiti con questo progetto diciamo l'anno scorso, in ottobre-novembre, e abbiamo cercato di organizzare attorno a questo progetto tutto un sistema che comunque garantisca il consumatore con delle regole ben precise che riguardano la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti posti in vendita, ma anche certamente il prezzo. E quindi nei nostri mercati, quelli accreditati come mercati di Campagna Amica, i prodotti vengono venduti, quelli confrontabili con l'SMS consumatori, al 30% in meno. Ecco, dove li avete predisposti questi mercatini? Dove li possiamo trovare? C'è un elenco, per esempio, presso il sito della Coldiretti, qualora fossimo interessati a capire se ce n'è uno vicino alla città dove abitiamo, Manfredini? Certo, dunque, noi sia nel sito del Coldiretti, ma soprattutto nel sito di Campagna Amica, che è www.campagnamica.it, c'è l'elenco di questi mercati. Ecco, bisogna dire una cosa importante: questi mercati sono in evoluzione, quindi pian pianino poi assorbono le regole che noi diamo e quindi vengono classificati anche a seconda dell'accreditamento che hanno. Che regole date? Beh, noi diamo un disciplinare, un regolamento interno piuttosto rigido, che riguarda, come dicevo, i punti principali, ovviamente l'esposizione del prezzo col 30% in meno, ma anche cerchiamo di garantire ovviamente la sicurezza alimentare, la qualità dei prodotti, con un sistema di assistenza alle imprese agricole che vanno sul mercato. Allora, poi cercheremo di capirne qualcosa di più, anche per così magari dare una cifra, un numero rispetto a quanti visitatori avete ricevuto in questi mesi, avete accontentato in questi mesi. Insomma, che tipo di richieste soprattutto vi fanno? Ma visto che Manfredini ha citato l'iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole, SMS Consumatori, ce la facciamo raccontare da Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, perché il Ministero, per attivarla, ha chiesto l'aiuto anche delle associazioni dei consumatori. E allora, che cosa ci facciamo con questo numero che il Ministero delle Politiche Agricole appunto ci ha messo a disposizione, che adesso ovviamente mi sono persa, eccolo qua, 47 947. Esatto, Trefiletti. Digitando pomodoro, che cosa mi esce? Esce esattamente quanto costa il pomodoro in varie versioni al nord, al centro e al sud. In alcuni casi c'è addirittura il prezzo alla produzione e nel grande mercato, ma la cosa più importante è il prezzo di vendita, in modo che il cittadino può verificare rispetto a un prezzo che vede sulla bancarella o su un negozio se c'è in atto una speculazione sul prezzo stesso e quindi cambiare il prodotto da acquistare. Quindi è un parametro, diciamo, di riferimento, così? Come? Un parametro di riferimento, se vede. Esattamente, un parametro di riferimento molto importante. Addirittura si potrebbe, attraverso questi parametri di riferimento, fare la programmazione della propria spesa, e cioè vedere attraverso l'SMS quali sono i prodotti che sono meno cari in quella giornata e programmare, fare la propria spesa in relazione a un risparmio che uno vuole ottenere, naturalmente comprando all'interno degli 84 prodotti del servizio che noi diamo. Sì, anche se c'è da dire... No, Trefiletti, no, quello che volevo precisare è che in realtà non posso mandare una richiesta a questo numero per 84 prodotti, perché è possibile inviare un massimo di 5 messaggi al giorno, se non sbaglio. Sì, sì, questo è vero, però no, c'è anche il sito che porta lo stesso nome, www.smsconsumatori.it, dove uno addirittura si può fare veramente la programmazione molto dettagliata di tutti i prodotti che vuole comprare. No, l'ho voluto solo precisare perché poi magari qualcuno, certo, si sbizzarrisce e si diverte anche a fare questo lavoro, perché prende di petto la situazione e poi magari dice, insomma, il solito servizio che non funziona. No, ci sono delle regole. Funziona, ecco, a perfezione ed è del tutto gratuito, ricordiamolo. Addirittura voglio aggiungere una cosa rispetto alla domanda che faceva Manfredini di Coldiretti. Stiamo vedendo di allargare il servizio dando proprio nello stesso SMS consumatori gli indirizzi dei mercati di prossimità più vicini al consumatore dove vuole andare a fare un acquisto appunto in vendita diretta. Quindi anche questo sarà un ulteriore servizio che sarà messo a disposizione dei cittadini, in modo da sapere: io abito in questo quartiere di questa città, ci sono dei mercati, dei farmer market che sono vicini a dove abito, oppure dove sono. E allora questo sarà un servizio che sarà amplificato proprio nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Stiamo lavorando da un punto di vista della tecnologia e naturalmente su informazioni che Coldiretti, e non solo Coldiretti, anche se è la protagonista praticamente dei farmer market, sarà appunto, metterà questi indirizzi, metterà a disposizione. Ecco, non so se mi è sfuggito, l'ho già detto, Trefiletti, ma magari lo riprecisiamo di nuovo: come si forma il prezzo che viene rilevato da questo servizio SMS? Cioè, allora, se ci dà il prezzo del pomodoro, ecco, come viene rilevato? Viene rilevato in maniera immediata, in tempo reale, perché perché sono i nostri rilevatori, quindi sono dei rilevatori ulteriori, non quelli dell'Istat, ma sono dei rilevatori che vanno quotidianamente a rilevare appunto i prezzi in determinate tipologie di vendita e secondo in determinati territori, cioè il centro, la periferia e le varie tipologie che sono la bancarella, il negozio oppure il supermercato. Quindi c'è una, diciamo, una rilevazione in tempo reale di questi prodotti e vengono poi naturalmente analizzati da una società di informatica, perché noi non siamo ovviamente in grado, tutti questi dati vengono elaborati e il prezzo medio viene dato immediatamente al cittadino che fa l'SMS gratuito, lo ripeto ancora. Infatti. Ecco, volevo anche dire che ha fatto bene alla domanda prima Manfredini di quanto, perché questo è un dato molto importante, perché c'è stata anche polemica rispetto ai farmed market. Bene, rispetto a questa polemica noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa come associazione dei consumatori e la Coldiretti, e siamo pronti a fare anche con altri ovviamente, con tutti i soggetti della filiera, per cui si possono vendere nei farmed market solo prodotti che abbiano il 30% di sconto rispetto al prezzo determinato dall'SMS consumatore. Ah, quindi c'è proprio uno standard che è stato stabilito da questo protocollo che avete firmato? Esattamente, perché c'è stata la polemica per dire ma i farmed market poi magari non fanno risparmiare molto. Invece c'è quello che si diceva prima, la maggiore qualità, il legame col territorio, il fatto del minor fabbisogno energetico perché sono prodotti a chilometro zero, il rapporto con lo stesso produttore, ma c'è questo dato, è veramente importante, che non si possono vendere, c'è proprio un protocollo e un codice deontologico molto preciso, prodotti che costassero meno, diciamo così, con uno sconto inferiore. Quindi, tanto al 30%. Quindi ammettiamo che io mi volessi rifornire di 2 kg di pomodori e 2 kg di mele, individuo il farmer market che è più vicino a casa mia, Tre Filetti, mi faccio un controllo sul sito, su SMS consumatori, vedo quali sono i prezzi praticati in media sul territorio di questi due articoli, vado al farmer market e devo avere la certezza che lì mi danno il 30% in meno di prezzo. Assolutamente. Questo non è il meccanismo. Non può essere inferiore lo sconto del 30%, è un preciso accordo che abbiamo fatto. Chiarissimo. Giancarlo Marini, i gruppi d'acquisto solidale si riforniscono anche dai mercatini dei produttori, ai farmer market? No, i gruppi di acquisto solidale tendenzialmente non si riforniscono dai, perché è ormai da anni che i gruppi di acquisto solidale hanno capito che bisognava uscire dalla logica normale dell'acquisto al supermercato, dell'accettare quello che altri decidevano che tu dovevi consumare. E la scelta è stata proprio di andare direttamente dal produttore. Non un produttore qualsiasi, ma un produttore che con noi condivideva quei valori di rispetto del territorio, dell'ambiente e del lavoro umano. Perché lei mette in discussione il fatto che il farmer market sia organizzato e allestito direttamente dal produttore? Non mette in discussione assolutamente questo. Diciamo, noi siamo andati a cercare dei produttori che con noi condividevano questa sfera di valori. Ne esce nella maggior parte delle volte un prezzo trasparente. Questo prezzo trasparente è dato dal fatto che appunto la gente che lavora è tendenzialmente tutta in regola, anzi è sempre in regola, che c'è rispetto dell'ambiente, che non vengono rovesciate tonnellate di concimi chimici all'interno dell'acqua del terreno. C'è tutto uno spirito. Esatto, i gruppi di acquisto diciamo che sono un modo intelligente di comprare, ma quando dico intelligente lo dico nella parola, nel significato latino, cioè di chi cerca di capire che cosa compra e da chi lo compra. Se poi risparmiate qualcosa credo che vi faccia proprio... No, certo, risparmiamo molto. Risparmiamo molto a qualità, a pari qualità. Anche se poi sul discorso del risparmio bisogna fare tutta una serie di ragionamenti. Io posso decidere di andare a comprare del parmigiano reggiano che costa molto poco. È chiaro che quando lo gratto, tre quarti di questa parte rimane attaccata alla grattugia. Alla grattugia e la butto via. Alla fine mi sono accorto che forse non ho risparmiato così tanto. Posso decidere di andare a comprare 150 prodotti per la casa, oppure, come facciamo noi, comprarne 4 di base che aggiunti con varie percentuali di acqua fanno lavatrice, lavastoviglie. Però lo spirito del risparmio c'è, perché poi l'acquisto in grande quantità per molti nuclei familiari, perché questo è poi anche ciò che anima la vostra attività, credo che porti anche ad un risparmio. Mi chiedo che cosa sia successo in questi mesi, se qualcuno vi ha riscoperto anche in virtù della crisi. Credo proprio di sì, ha riscoperto il fatto che si può comprare meglio e comprare a meno. Noi c'è un dato, una nostra amica del nostro gruppo d'acquisto ha tenuto d'occhio per un po' di tempo i suoi acquisti. Insomma, noi abbiamo dimostrato cifre alla mano che ovviamente man mano che crescevano gli acquisti all'interno dei prodotti che facevamo arrivare dalla tipologia, che facevamo arrivare come gruppi di acquisto, diminuiva ovviamente la spesa al supermercato e soprattutto diminuiva la spesa complessiva. I motivi sono abbastanza chiari, perché andare al supermercato spendi di meno, hai meno tentazioni, compri meno cose inutili, e perché la qualità che compravi era migliore, buttavi via di meno. Al gruppo di acquisto, certo. Perché ha detto supermercato, quindi stavo... Va bene, allora abbiamo messo un bel po', come dire, di carne al fuoco, anche se stamattina parliamo prevalentemente di ortofrutta, anche se poi in realtà non è detto, perché si può parlare anche di carne, si può andare anche dal produttore per acquistare tagli di carne. C'era un'inchiesta su Repubblica in questi giorni che tra l'altro affrontava anche questo aspetto, vedremo se riusciremo stamattina a farlo. Io riesco a fare intervenire un ascoltatore con la sua considerazione, poi risponderemo a tutti nella seconda parte di Salvadanaio. Vincenzo da Milano, buongiorno, dalla provincia anzi. Sì, buongiorno. Non vorrei essere fuori tema, però a proposito di gas, se non ricordo male, le prime volte di cui ne ho sentito parlare erano legati a prodotti tipo latte in polvere invece che i pannolini per bambini, quindi a prodotti non freschi. Mm-hmm. Per cui mi chiedevo in realtà se tramite questi gas è possibile acquistare anche prodotti, diciamo, confezionati, o come viene gestita questa cosa al di là dei prodotti consumabili freschi. No, Vincenzo, lei ha ragione, perché in realtà anche io avevo sentito parlare delle prime esperienze di gruppi di acquisto solidale, proprio riferendosi per esempio al latte in polvere, che qua in Italia costa un'enormità rispetto invece a paesi più vicini. Mi ricordo addirittura di gruppi che si attrezzavano per andare in Austria, dove questo articolo costa molto meno. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Oggi siamo tornati su un tema che abbiamo già frequentato nelle settimane passate, soprattutto quando la crisi dei consumi stava manifestando tutti i suoi peggiori effetti, soprattutto quando i prezzi di determinati beni di largo consumo stavano esplodendo anche a causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Come ricorderete, l'estate scorsa era stato raggiunto davvero l'apice di questo fenomeno molto, molto preoccupante. Il petrolio a $150 aveva fatto volare i prezzi dei carburanti, e con questo ovviamente tutti i prezzi, anche in particolar modo dell'ortofrutta. Avevamo mantenuto sotto controllo quel ramo lì, c'era stato anche un grande lavoro in questo senso di Mister Prezzi, insomma è stata una tendenza negativa che ha fatto però scoprire qualcosa di positivo, cioè come si può acquistare direttamente dal produttore risparmiando qualcosa, ovviamente senza rinunciare anche alla qualità. E questo è un discorso molto importante, soprattutto per un paese come il nostro, che come sapete fa della dieta mediterranea il suo grande cavallo di battaglia, per cui l'ortofrutta è, come dire, un tema delicato la cui situazione relativamente al prezzo ci interessa molto. Ne stiamo parlando stamattina con Rolando Manfredini di Coldiretti, Giancarlo Marini, gruppo di acquisto solidale di Milano, Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Volevo concludere con Marini, perché c'era stata una domanda di un ascoltatore di Milano, di Vincenzo della provincia, che aveva chiesto chiarimenti rispetto al lavoro dei gruppi di acquisto solidale. Lui dice: io ne avevo sentito parlare solamente per come dire, determinati prodotti, l'alimentazione dei bambini, il latte in polvere, i pannolini per i bambini. In realtà poi voi, come dire, vi muovete anche... Facciamo mea culpa sulla scarsa comunicazione. No, in realtà questi gruppi di acquisti per i pannolini, per il latte dei bambini, ci sono ci sono stati, sono venuti dopo, spesso parallelamente a dei gruppi di acquisto solidale. Sono dei gruppi di acquisto che vanno a cercare situazioni di risparmio. I gruppi di acquisto solidale hanno in più questa S, cioè che sono solidali al proprio interno, nel senso che si riorganizzano i compiti, e sono solidali verso l'esterno, cioè vanno ad appoggiare piccoli produttori, piccole realtà che procurano lavoro a soggetti svantaggiati, e sono solidali in questo senso, li sostengono il loro lavoro e il loro impegno attraverso gli acquisti. Anche se poi oggi appunto ci focalizziamo quasi esclusivamente sul risparmio. Maurizio da Salerno, una bella considerazione che poi vorrei girare a Manfredini della Coldiretti. Maurizio, benvenuto a Salvadanaio. Pronto? Ci siamo, eccoci con lei. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, a riguardo di questi farmer market che tanto sembra siano la panacea di tutti i mali, vista la crisi e vista anche l'aspetto della qualità. Ebbene, io faccio una considerazione corta, così tagliamo la testa al toro. Quando fu il caso dell'aviaria, a me piacciono tantissimo le cotolette, pezzi di pollo in autogrill. Bene, in quel periodo io ne mangiavo di più, perché prima che la fettina arrivi in autogrill, perché autogrill ci mette la faccia, il suo nome, il suo... Va bene, sa quanti controlli ha dovuto passare quella fettina lì? Tantissimi. Sì. Quindi se fosse stata infettata quella fettina non sarebbe stata lì. Quindi qual è l'attinenza con l'attività dei farmer market, Maurizio? È questa, che se mentre la mia ragazza, la mamma della mia ragazza mi offriva un pollo, io lo davo al cane, perché quello lì non me lo controlla nessuno. Cioè, vabbè, ma la viaria in Italia, Maurizio, adesso... Vabbè, ho parlato della viaria per dire la diossina, quando è stata il fatto della mozzarella di bufala. L'hanno scoperta perché... Le tante trafile della grande distribuzione, analisi a destra, a sinistra, tutte le cose che venivano richieste in quel periodo, era tremendo. Quindi se era infetto il latte o comunque il pollo, comunque tutto, viene fuori. Mentre dal consumatore che si rivolge all'allevatore, al contadino, salta tutta la trafila dei controlli. Ma sì, Maurizio, no, ma io ho capito perfettamente le sue perplessità. Detto questo, però, qua c'è una campagna che ha anche un sapore istituzionale, direi, quello di Campagna Amica che dicevamo, organizzata dalla Coldiretti, e credo proprio che l'aspetto dei controlli non sia secondario, no, rispetto all'attività complessiva. Manfredini, come possiamo rispondere alle perplessità del nostro ascoltatore? Sì, l'aspetto dei controlli è fondamentale, perché pensate solo, in un momento in cui ci possa essere un incidente di questo tipo, si fermerebbe tutto questo processo, perché poi alla fine il consumatore deve essere assolutamente rassicurato rispetto a questa cosa qua. Però teniamo presente una cosa molto molto importante, che le aziende agricole, diciamo, sono iper stracontrollate, cioè sono nello stesso meccanismo di qualsiasi altro tipo di controllo che viene fatto o dall'industria o dalla grande distribuzione. Tant'è che poi i dati, tra l'altro, sulla sicurezza alimentare, i dati generali sulla sicurezza alimentare indicano come il nostro paese, quindi i dati effettivi fatti sulle derrate alimentari e anche quindi sulla produzione primaria, indicano come il nostro paese sia assolutamente in una situazione di eccellenza. No, tra l'altro prima parlavamo anche delle regole di adesione a Campagna Amica, non so se anche in questo caso per i produttori che intendono appartenere ad una iniziativa di questo tipo, se a questi chiedete degli standard anche di comportamento per quello che riguarda i controlli rigidi, precisi, Manfredini. Assolutamente sì, ma gli standard sono quelli previsti ovviamente dalla legislazione, che tra l'altro è una delle più restrittive al mondo, quella italiana. Quindi i produttori di Campagna Amica, chiamiamoli così, quelli dove vanno nei mercati che noi identifichiamo, poi devo dire una cosa rispetto a Trifiletti, che noi identifichiamo, sono assolutamente controllati e garantiscono che il prodotto che arriva sul mercato sia assolutamente sicuro e di qualità certa. Cioè, d'altra parte poi il confronto stesso col consumatore ci obbliga in questo senso, perché è il consumatore stesso che di fatto poi alla fine può darci delle risposte o negative o positive in questo confronto. Quindi cioè, noi non possiamo assolutamente fallire da questo punto di vista. Cosa voleva dire Trifiletti? A Trifiletti volevo dire che effettivamente il concordato che abbiamo fatto con le maggiori associazioni consumatori italiane... La questione del 30% di sconto, sì. Di sconto, però in quei mercati che sono regolamentati e accreditati, quindi non tutti i cosiddetti farmer market o mercati del contadino, eccetera, eccetera, ma soltanto i mercati identificati con la sigla MCA, cioè i mercati di Campagna Amica, che espongono il logo della Coldiretti e il logo della Fondazione di Campagna Amica, sono riconducibili poi a questo disciplinare e a questo regolamento. Questa quindi è una realtà di farmer market molto ben organizzata e strutturata. Poi ci sono anche, come dire, quei produttori che invece operano in maniera un po' più autonoma, che magari non aderiscono a campagne come queste, ai quali però ci si può rivolgere tranquillamente, magari anche in questo caso mantenendo una certa sicurezza rispetto a tutte le perplessità che esponeva prima il nostro ascoltatore di Salerno, Giancarlo Marini De Gas. Certo, assolutamente, non c'è miglior controllo che quello personale. I gruppi di acquisto instaurano con il produttore un rapporto diretto. Il produttore, sia esso di formaggi, sia esso di carne, sia di frutta e verdura, ci permette di andare a vedere come lavora, ci permette di vedere che cosa fa, e noi controlliamo di persona e ci fidiamo di questa persona perché si instaura un rapporto di fiducia. Questo credo che sia la migliore forma di controllo che possiamo fare, al di là di tutte le certificazioni bio, non bio, che possono essere fatte. Anche perché, voglio dire, non ci dimentichiamo mai dove viviamo. Viviamo in Italia, un paese che ha una tradizione anche legata all'attività di campagna consolidata, molto che ci invidiano ovunque, per cui perché anche non valorizzare questo aspetto nel nostro paese? E magari su questo torniamo anche nell'ultima parte di Salvadanaio fra qualche minuto, però vorrei far sentire anche altri ascoltatori. Ci continuano a chiedere qual è il numero verde di SMS Consumatori, 47947. Altri ci chiedono invece come trovare il gruppo d'acquisto più vicino a casa propria. Ci torniamo fra un attimo. C'è invece Angelo da Bari, che di mestiere fa l'ortolano, Angelo, e ci contesta un po' i termini con cui stiamo ponendo la questione stamattina. Perché? Ma guardi, io di mestiere diciamo che faccio l'ortolano, conduco 30 ettari di orto, quindi deve tener conto che io spedisco insomma qualche autotreno di ortaggi al giorno. Qualche quindi, numero discreto, sì, infatti. Sì, quindi sentir parlare di farmer market mi suscita un sorriso amaro. Perché? Il farmer market, egregio signore, è solamente uno spot pubblicitario della Coldiretti. In realtà, per quanto riguarda la produzione, non dà nessun sollievo, nessun ristoro ai produttori, che sono in una crisi di mercato spaventosa di cui non parla nessuno. Le devo solamente dire che noi i prezzi che riusciamo a spuntare sul mercato non bastano a coprire le spese del trasporto e degli imballaggi, al netto della manodopera e del prodotto stesso. Quindi io non riesco a capire che cosa a me personalmente o al consumatore può cambiare. Se lì tiene presente che quasi il 90% dell'ortofrutta viene veicolata attraverso la gran distribuzione, non riesco a capire a che cosa può giovare il farmer market. Ecco, qua, sentirmi dire di una campagna istituzionale che si chiama Campagna Amica, guardi, mi fa avvelenare ancora di più. Perché qui ci devono dire che cosa ne vogliono fare di questa campagna, se loro hanno ancora interesse a tenere gli agricoltori in campagna, che oltre ad essere aziende produttive, signora, che danno reddito e ricchezza, sì, certo, servono anche a presidiare il territorio. Esatto, quello che dicevamo poco fa, Angelo. Noi prendiamo atto del suo sfogo, anche per certi versi amaro, ma questo non fa altro che mettere il dito su una piaga che ben conosciamo, cioè la filiera dei prezzi, come si formano e dove diamine si formano anche questi aumenti, che si concretizzano poi anche sulle banche del supermercato e che hanno reso necessario anche l'attivazione e l'enfatizzazione appunto di queste vie alternative per consumare, come quelle di cui stiamo parlando questa mattina. Dopo lo sfogo di Angelo da Bari, un ortolano che lui si definisce tale, che coltiva la bellezza di 30 ettari di terreno, ma magari ce n'è qualcuno anche più ampio, però lui dice insomma sì, farmer market saranno tanto utili, ma a me come produttore che vantaggio mi porta, visto che comunque anche con i costi che devo praticare, qualora anche i consumatori venissero da me, non riesco a coprire le spese a malapena di pochissimo. Insomma, poi sentiremo Tre Filetti e Manfredini, quindi Federconsumatori e Coldiretti su questo. Ci volevo mettere però insieme anche Vittorio da Milano, che ci aiuta ad affrontare la questione del latte fresco. Vittorio. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Ecco, no, discutavamo ieri appunto con un nostro amico che ha una stalla qui vicino, abito in periferia Milano, ecco, che vende il latte, diciamo una nota casa di formaggi, eccetera, 0,40 il litro, il latte, diciamo, no? E poi ha aperto questa, diciamo, questa camera dove si vende il latte poi alla spina, al litro, sì, eccetera. Dunque, l'anno scorso costava 0,85 compresa la bottiglietta di plastica da un litro, no? Ecco, invece quest'anno è un euro e 20 centesimi la bottiglietta di plastica. Ha visto, no, evidentemente, visto che la richiesta era molta, lei dice che se ne è un po' approfittato? Ho approfittato, perché no, così sarà, così se prenderà piede questa cosa del farm, di queste crobbie, più richiesta ci sarà e più aumenteranno i prezzi. Insomma, poi facciamo il nostro lavoro di consumatori, cominciamo ad abbandonarli se i prezzi cominceranno a diventare insostenibili, no Vittorio, non crede? Un litro a un euro, no? Che è pochissimo più basso di quello che poi si trovano nei supermercati normali, per dire, no? Ecco, lì la filiera però bravo, glielo domandi e rimane un po' così. Effettivamente da 0,40 che dà a quella ditta a un euro, effettivamente il guadagno è tantissimo. Ecco. Ecco, era solo questo. Voglio dire che più richiesta ci sarà e più ne approfitteranno. Grazie, grazie Vittorio. Allora, Rosario Trefiletti, Federconsumatori, da dove vuole cominciare? Dall'ortolano di Bari o dal nostro amico che vuole il latte fresco comprato direttamente in stalla, ma ha notato che il prezzo da un anno a questa parte è cresciuto in maniera del tutto ingiustificata, mi sembra di capire. Ma guardi, in termini generali, innanzitutto nessuno crede di aver risolto i problemi del risparmio con il farmer market. Questo lo sappiamo per certo, perché il farmer market potrà tutta più influire per un 8-9% e sarebbe già altissima la percentuale della cittadinanza italiana rispetto a questo problema dell'acquisto di ortofrutta e non solo ortofrutta. Il problema è dare un segnale intanto molto forte per cui la filiera può essere accorciata con risparmi. Questa è la prima questione. La seconda questione è chiaro ed evidente che se anche è una percentuale bassa di offerta di mercato per le famiglie italiane, ma è chiaro che fa elemento calmierante comunque. Questo sono dati assolutamente importanti. Terza cosa, c'è un vincolo ben preciso: i prezzi nei supermarket, naturalmente quelli certificati, faceva bene Manfredini a ricordarlo, quelli con cui noi abbiamo fatto l'accordo, devono essere inferiori del 30% del prezzo di mercato. Quindi si tratta di dare un aiuto alle famiglie, oltre alle cose che si dicevano prima, rapporto sul territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Si tratta molto semplicemente di mettere in campo nel mercato una sorta di offerta alle famiglie differenziata rispetto ai vari passaggi che ci sono, i vari supermercati. Quindi non è un problema di chiusura degli altri segmenti della produzione, perché non è che l'8-9% che può raggiungere il farmer market o i gas, i gruppi solidari di acquisto chiudono, fanno chiudere le filiere produttive e dell'intermediazione. No, sono un elemento innovativo che danno un contributo al calmieramento dei prezzi rispetto alle famiglie che nelle condizioni in cui si trovano. Lo stesso dicasi per il latte. Ora, io non so dove ha trovato il valore 0,40, io so che 40 centesimi, 0,40 o 40 centesimi, sono generalmente il prezzo che viene pagato agli allevatori. Quindi io non ho mai visto una macchinetta che dà il... No, lui, questo è il primo prezzo. Il latte a 40 centesimi. No, Vittorio diceva quello è il prezzo che quell'allevatore, che quel produttore, quella stalla faceva ad un'azienda che poi vende latte. Esatto, ecco. Quello è il prezzo, può variare dal 40 centesimi, 41, 42. Esatto. Ma voglio dire, però dice lo stesso latte ad un produttore privato lo davano ad 85, che adesso è diventato un euro. Ecco, ma io ho sempre saputo che erano 80 centesimi a un euro la vendita. E rispetto al fatto che il latte, è vero che qualche volta si trova, stiamo attenti però, generalmente sono latte di importazione, sono latte tedeschi, sono, perché il latte, quello italiano di qualità, varia da 1,40 a 1,60, perché state parlando, non dico con mister prezzi, ma perché io non sono mister prezzi, però ma sono quello che sa tutto sui prezzi, quindi è da 1,40 a 1,60 il latte. No, più che altro Vittorio contestava il fatto che lo scorso anno un litro di latte lo metteva in vendita quel produttore a 85 centesimi e quest'anno è passato ad un euro, e lì non c'è nessuna filiera con la quale questa persona si deve confrontare, tutto là. Questo è l'aspetto che contestava l'ascoltatore. Ma questo ha ragione di protestare, eventualmente cambia la fornitura, cioè cambia non compra più in quel posto. Infatti, dove senta, vorrei andare da Manfredini per invece affrontare rapidamente, ci rimangono pochi minuti, la questione dell'ortolano di Bari, perché ci è piaciuta parecchio. Lui dice: sì, ovviamente stiamo facendo tutta questa battaglia perché la situazione dei consumatori ci interessa molto, e anche lui evidentemente è un consumatore che avrà a cuore il budget della famiglia dedicato alla spesa per l'alimentazione. Però Manfredini, Angelo dice anche: ma insomma, se io volessi organizzarmi con un farmer market, ma come produttore, ma che vantaggi ho? Che cosa ci guadagno? Ma guardi, devo dire che mi ha un po' anche amareggiato anche me sentire una presa di posizione così forte nei confronti comunque di un sistema di vendita diretta che garantisce il consumatore da una parte, abbiamo visto, ma garantisce anche il produttore. Io vorrei ricordare ad Angelo che adesso i nostri produttori, grosso modo, il valore di un prodotto è intorno ai 17 centesimi, cioè vale a dire su quel prodotto prendono circa 17 centesimi. Io sfido chiunque a dimostrare che in un farmer market il produttore non ha dei vantaggi a vendere. Poi certamente, naturalmente, come diceva Trefiletti, non è che i farmer market possano risolvere la questione, perché dovrebbero essere veramente raggiungere addirittura cifre, se si raggiunge la cifra a due percentuali, cioè una percentuale a due cifre, sarebbe già un successo chiaramente enorme. Ricordo che per esempio la Francia è su un 16-17% di vendita diretta, noi in Italia siamo al 3-4%, quindi questo metterebbe in moto comunque un meccanismo di salvaguardia stessa anche dei produttori. Poi certamente non risolveremo tutte le questioni relative alla distribuzione, perché ovviamente la maggior parte passerà sempre dalla distribuzione, dalla grande distribuzione, ma è un esempio. Io vorrei invitare Angelo a Bari, abbiamo dei farmer market, vorrei invitare Angelo a venire a vendere anche lui, se è socio della Coldiretti, in un farmer market e poi dare le valutazioni effettive. Esatto, tra l'altro le faccio sentire Luigi da Bari, un altro ascoltatore di Bari, mi promette che sarà brevissimo, un'altra esperienza che invece ha avuto, come dire, una conclusione completamente diversa. Luigi, buongiorno, rapidissimo se ci riesce. Buongiorno dottoressa. Grazie Rossani. Molto. Grazie per... io avrei da dire parecchie cose, purtroppo sono arrivato alla fine, alla chiusura, vedrò di fare del mio meglio. Io sono un piccolo coltivatore di ulivi, nella provincia di Bari. Che bello. Adesso mi trovo proprio in campagna, io vi ascolto sempre, mi fa piacere, adesso lo dico, che questa radio, nonostante sia una radio economica, tratti anche di questi argomenti così. E perché questa così, non è economia, Luigi, ci mancherebbe così, altro. Ma così vicino alla gente. È tanto alla di gente, cappello a questa economia nel nostro paese. Grazie di nuovo. Che cosa ha fatto Luigi lei con il suo uliveto? Io che cosa sto facendo? Da qualche anno sto cercando di vendere il mio prodotto direttamente al consumatore. Ecco, in questo modo riesco a recuperare certamente. Non ad eliminare le problematiche gravi che ha detto il signore dell'ortolano, perché comunque quelle sono le problematiche di fondo del settore, perché noi siamo in completo abbandono. Noi viviamo di sussidi, se non ci arrivava l'integrazione dell'olio, noi non sapevamo come pagare le tasse e i contributi. Questa è la verità del nostro settore, almeno per quanto riguarda me, che sono un piccolissimo coltivatore, io ho circa 4 ettari, quindi non è che... è di qua. Comunque l'esperienza è positiva, perché comunque ho convertito per forza di causa maggiore, ma ne sono molto, molto contento, ho convertito parte della mia azienda a biologico, perché c'è anche questa richiesta. Luigi, io la devo salutare perché veramente mi mancano 40 secondi, ma riorganizzeremo una puntata su questo e magari così potremo anche accontentarvi e farvi intervenire un po' di più. Concludo con Giancarlo Marini del gasdotto di Milano, perché altrimenti dirà che l'ho invitato per scherzo. Insomma, cosa ci insegna questa puntata? Allora, ci insegna che dobbiamo cambiare il modo di acquistare, che dobbiamo andare direttamente dal produttore. Ma io lavoro tanto, non ho tempo da andare al produttore, non ho alternativa al supermercato, che cosa posso fare? L'unica alternativa al supermercato è smettere di continuare a delegare, a delegare chi pensa per noi quello che ci dice la televisione, a delegare anche quello che andiamo a comprare. Ci vuole un po' di sforzo, ma non tanto. E poi dentro i gruppi di acquisto solidale si incontrano tante persone simpatiche e piacevoli. Chi vuole saperne di più se ne può andare a vedere su www.retegas.org, ci sono tutti i gruppi solidali, quelli vicini, quelli più lontani, ma soprattutto ci si può pensare di organizzarne uno. Grazie molte a Giancarlo Marini, gasdotto di Milano, Rosario Trefiletti, Federconsumatori, e Manfredini della Coldiretti. Io dovrò continuare ancora a lungo ad andare al supermercato, perché il tempo è quello, e comunque anche la grande distribuzione in quanto a prezzi, poi magari non troviamo ovviamente la frutta e la verdura di straqualità del momento, proprio estratta dalla terra al momento, però adesso ci sono grandi sforzi che anche la grande distribuzione sta facendo per rendere la spesa un po' più come dire, non dico piacevole, ma sostenibile per le famiglie italiane. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.